Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Da stasera, finiti in archivio a dicembre la Champions League, comincia la Coppa dei Campioni. Questa è la frase che il ministro degli esteri aspettava di sentire, vero Fabio Tavelli? Esatto, con molta gioia l'ho riascoltata. Buongiorno Gigi. Buongiorno a te, un rito annuale. Beh, basta con i gironi, basta con le partite che contano e non contano. Eliminazione diretta, non c'è altro modo per divertirsi, per vedere grande calcio, per provare grandi emozioni. Vale per le fasi a gironi dei mondiali e poi per gli ottavi, per gli europei, vale per tutto. Comincia con Milan-Tottenham, questa Coppa dei Campioni, che ci verrà più tardi presentata in dettaglio da Fabio Curicini. A te domanderei, intanto notizie sull'altra partita e poi in generale su questo primo mini turno, nel senso che è spezzata su due settimane. Vabbè, intanto devo dirti che mi sembra già una buona idea questo spezzatino, nel senso che visto che siamo agli ottavi di finale ci sono 16 squadre e sostanzialmente la possibilità di vederne almeno il 50% delle partite. Sono abbastanza curioso di vedere Valencia contro Schalke 04, perché il Valencia ha cominciato un campionato, è andato molto bene in Champions League nella fase a gironi, sì. Facendo anche un'ottima figura nel girone del Manchester United, e soprattutto in questo momento è al terzo posto della Liga Spagnola ed è un terzo posto raggiunto senza avere particolari squilli sulle cronache internazionali. Una squadra abbastanza come dire classica, e una squadra che secondo me può invece fare una bella strada, perché in questo momento io la ritengo nettamente favorita rispetto allo Schalke 04, anche perché in classifica lo Schalke 04 sta appunto a metà e non è una squadra che mi dà la sensazione di poter fare grandi cose. C'è la curiosità di vedere Raul e di vedere l'attacco, sì, a questo record di Inzaghi. Trovo anche che insomma siamo ai titoli, se non di coda quasi con Raul, per cui sì, insomma, certo. La concorrenza con Milan-Tottenham è abbastanza debole in Italia, ovviamente. Senti, se mi hai fatto venire in mente dicendo titoli di coda, ieri c'è stato un titolo di coda per certi versi struggente, perché insomma con tutto quello, con tutti gli anni in cui è sopravvissuto a se stesso, non c'è dubbio che Ronaldo intanto sia riuscito a sopravvivere a due rotture di tendine rotulei, che già è un miracolo clinico se vogliamo, sia pure a prezzo di peso e di disastri, e poi di lasciarsi andare tutto quello che vogliamo. Però se vogliamo ricordare il vero grande Ronaldo fino a quella sera di Lazio Inter dell'aprile del 2000, non possiamo che ricordare uno dei più grandi di tutti i tempi. Io penso che Ronaldo sia uno dei rarissimi esempi di calciatore ricordato col sorriso, ma un sorriso piacevole, un sorriso benevolo da parte di tutti. Sì. Penso che lui ha cambiato molte bandiere, certamente i tifosi dell'Inter non hanno apprezzato né la fuga a Madrid né il ritorno al Milan, ma anche il tifoso interista più arrabbiato credo che non possa non provare simpatia per Ronaldo, così come veramente parlando con tutti, la sensazione era davvero di trovarsi davanti a un giocatore trasnazionale, un giocatore che andasse veramente oltre tutto, e chiunque davvero mi ha raccontato di aver avuto esperienza diretta con Ronaldo mi ha detto che Ronaldo è stato il più forte giocatore col quale ha potuto confrontarsi. È evidentemente anche un problema generazionale nei confronti di Maradona, e magari questo lo diranno fra qualche anno di Leo Messi, però davvero tutti quelli che hanno avuto a che fare con Ronaldo, o perché erano compagni di squadra e quindi si allenavano con lui, o perché erano avversari, dicono che il miglior Ronaldo, che cioè quello che arrivò all'Inter, è stato davvero un giocatore insuperabile per velocità, per capacità di andare dritto in verticale, per tutto quello che ci ha fatto vedere. Credo, ma penso che tu sarai d'accordo con me, che Ronaldo in realtà abbia finito la carriera molto tempo prima, certo. e che ci siano state un po' delle la visione di Ronaldo un po' grasso, magari anche mal consigliato, certamente in preda a una vita non proprio da atleta. Però è anche vero che per le poche rare immagini che arrivavano dal Brasile di un Ronaldo, ripeto, non certo atleta, non certo in un campionato dove i difensori sono come quelli europei, però riusciva comunque a fare delle cose inenarrabili, e questo gli va ascritto a grande merito. Testimonia della sua grandezza. Più tardi parleremo con gli ascoltatori di Ronaldo, sono arrivate molte mail, molti messaggi, da una parte per rivivere quell'epopea e dall'altra anche per, insomma, per provare a collocarlo, no? in un ipotetico Olimpo del calcio, anche se per queste cose poi queste cose diventano più attendibili mano a mano che passa del tempo. Restiamo all'Europa, anche perché io direi, se tu sei d'accordo, e lo saranno certamente gli ascoltatori, in questi giorni di trasformare il nostro appuntamento, magari di renderlo più breve, ma di renderlo quotidiano, se fosse possibile. Volentieri. Molto volentieri. Bene, perché così almeno abbiamo l'aggiornamento costante giorno per giorno. Quindi parleremo domani, per esempio, della vigilia del Match Clou, che è in programma domani sera, che è Arsenal-Barcellona. Che è il più bello di tutti. Certo. Carta, no? Io farei ancora un paio di notazioni che dal campionato possono riflettersi alla Coppa. La prima riguarda Mourinho, perché domenica sera ho visto, sia pure solo in parte, un vero grande Real Madrid vincere fuori casa su un campo difficile in 10 uomini e con l'espulsione del portiere Casillas dopo un minuto, ma giocare come, insomma, come giocava l'Inter l'altro anno nelle serate di grande ferocia, e con una squadra che tecnicamente forse vale anche qualcosa di più, o comunque se ne può discutere. Io sono d'accordo con te, Gigi, e trovo anche che, a parte il periodo, diciamo così, dicembre-gennaio, nel quale il Real Madrid ha effettivamente fatto un po' fatica, ma l'inizio della stagione e la partita contro l'Espagnol, partita durissima, perché l'Espagnol è una ottima squadra, secondo me accreditano il Real Madrid per una corsa molto molto lunga. Sì. So che qualcuno ogni tanto chiede pronostici, così io ho veramente la sensazione che il Real Madrid quest'anno non inciamperà presto, come le è successo tutte le volte. Il Real Madrid si è fermato quasi sempre agli ottavi di finale e una volta nei quarti di finale negli ultimi anni, ma l'ultima volta che ha superato ottavi e quarti ha vinto il titolo con quella finale contro il Bayer di Leverkusen. E credo davvero che anche se la Liga non è definitivamente chiusa, perché anzi il Real ha recuperato, ma che il passo gara possa essere davvero quello che fa paura. Credo davvero che il Real Madrid faccia ancora più paura in questo periodo. Certo che sì, anch'io la vedo a sta maniera. E poi c'è ancora un personaggio per oggi che è Carletto Ancelotti e il suo Chelsea, perché mi pare che ieri sera abbiamo dato l'addio definitivo, che comunque non era solo ieri, arrivava da dietro già al campionato, alla Premier League, e a maggior ragione questo potrebbe accreditarli, se non altro, come outsider per la fase finale di Coppa. Guarda, settimana scorsa lui ha fatto una conferenza stampa nella quale non so quanto volontariamente, allora, l'inglese di Ancelotti è molto migliorato, devo dire che è un ottimo inglese, quindi non credo che lui abbia sbagliato nel parlare in un'altra lingua, e ha sostanzialmente detto che il vero obiettivo era il mantenimento della Champions League, cioè considerava troppo lontano il Manchester United. Un allenatore che dice una cosa del genere dopo che la proprietà gli ha preso Fernando Torres, ora facciamo finta che Fernando Torres non abbia giocato le partite col Liverpool e col Fulham, e guarda caso il Chelsea ha fatto zero sia col Liverpool che col Fulham alla voce gol. Facciamo finta di non sapere questo. Ecco, una dichiarazione così un allenatore, a parer mio, non la dovrebbe mai fare. E ho il legittimo sospetto, se mi passi il termine, che Carlo Ancelotti sarà il prossimo allenatore della Roma e che effettivamente il Chelsea possa concentrarsi solo sulla Champions League. Detto questo, mi pare che anche concentrati al massimo i Blues non faranno una strada particolare. Faranno un bel po' di fatica. A domani, Fabio. Grazie Gigi, a domani, saluti a tutti. Chiudiamo questo collegamento Fabio Tavelli, poi ne avremo un altro, vi ripeto, con Fabio Culicini tra poco per presentare il Milan Tottenham di stasera, ma nel frattempo ci sarà spazio comunque per altri argomenti, per i vostri interventi e per la voce molto emozionata, quasi rotta dal pianto di Ronaldo al momento dell'addio al calcio. Adesso sentiamo come va su strade e autostrade. Il nome Andrea, con Ronaldo c'era la sensazione che ogni volta che toccava palla potesse accadere qualcosa. Non è più successo con nessuno all'Inter, né con Ibra, né con Milito, né con i grandi giocatori che poi si sono succeduti. Ha ragione Andrea, perché Ronaldo era davvero questo, è come adesso Messi, è come adesso curiosamente uno che porta lo stesso nome, che si chiama Ronaldo e di nome fa Cristiano, perché il vero erede di Ronaldo è questo Cristiano Ronaldo, perché hanno le stesse caratteristiche: velocità di base, lo scatto, la velocità di base, la velocità prolungata e la tecnica nel rendere irresistibile questa velocità prolungata. Solo che adesso per Cristiano Ronaldo c'è il riferimento del Ronaldo fenomeno, mentre quando apparve la ribalta Ronaldo, un giocatore così non si era ancora visto, e per questo, anche per questo, al di là del suo valore, fece grande sensazione. Un altro Andrea scrive da Cremona, raccontando la sua scoperta del calcio a Cremona prima e poi, una volta arrivato all'università a Milano, anche del grande calcio metropolitano, e poi conclude dicendo: la grandezza di Ronaldo si riassume per me in questo episodio. Il campionato successivo al primo di Ronaldo feci l'abbonamento all'Inter, ma con me lo fecero anche quattro amici di università, di cui tre erano juventini e uno milanista, e si abbonarono per vedere Ronaldo correre ogni 15 giorni da un'area all'altra alla velocità della luce. Molto bello questo messaggio, perché rende l'idea della suggestione di allora. Io sentirei la voce di Ronaldo ieri in un breve passaggio della sua conferenza stampa d'addio. Vim aqui para falar hoje que estou encerrando a minha carreira como jogador profissional. Dizer que essa carreira foi linda, foi maravilhosa, foi emocionante. Tive muitas derrotas, infinitas vitórias, fiz muitos amigos. Ma non era il caso di tradurre, secondo me basterebbero quel linda e maraviglioso, no? Questi due aggettivi con cui ha descritto, ha dipinto, ha ribattezzato la sua carriera, mi sembra che siano sufficienti per ricordare chi è stato calcisticamente Luis Nazaires da Lima, detto Ronaldo. Michele è in linea da Torino, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, la chiamo per un episodio che sono successi ultimamente, ma è uno di una lunga serie. Sono indignato del comportamento della società di calcio, soprattutto quelle più importanti economicamente e mediaticamente. Mi riferisco all'episodio, non ultimo però, dei due giocatori di Roma e Napoli, che hanno pensato bene che disputarsi uno con l'altro, e dopo che si sono stati pizzicati, le società hanno pensato non di punirli nuovamente, ma di fare ricorso. È successo già anche in passato con Eto'o, con l'Inter, con la Juventus, con Krasic, e via discorrendo. Vorrei capire queste società che predicano bene, razionano male, non si preoccupano tanto quando hanno dei torti arbitrali a rimarcare queste cose qua. E vorrei capire anche il ricorso che presenterà il Napoli, in questo caso, con le motivazioni di questo ricorso, che sarei veramente curioso. Non so cosa ne pensa lei. La penso grosso modo come lei. Penso però che ciascuno debba non solo voglia, ma debba tirare l'acqua al proprio mulino, e quindi che queste cose poi facciano parte della quotidianità per questa ragione. Guardi, un altro ascoltatore, Gabriele Menchelli, La Lucca, scrive per esempio, prende in esame il verbale del giudice sportivo su Juventus Inter domenica e me lo allega. Dunque, ammenda di 30.000 euro alla società Juventus per avere i suoi sostenitori: 1. Esposto prima dell'inizio e durante la gara alcuni striscioni dal contenuto insultante, eccetera. 2. Rivolto in più occasioni nel corso della gara a due calciatori della squadra avversaria grida costituenti espressioni di discriminazione razziale. 3. Lanciato nel primo tempo numerosi petardi nel settore occupato dalla tifoseria avversaria. 4. Acceso nel proprio settore alcuni fumogeni fatti esplodere numerosi petardi, eccetera, eccetera. Ora, l'ascoltatore Gabriele Menchelli, ripeto, conclude: c'è di tutto, striscioni che non si sa come facciano ad entrare, razzismo, lancio di petardi, già peraltro sperimentato in Juve Fiorentina. Nemmeno questo è servito ancora a portare alla squalifica del campo. Ma quando si fanno inchieste su come mai gli stadi italiani sono vuoti, metteteci fra le cause anche il fatto che la gente si è stufata di entrare in stadi come questi e di assistere a un giochino che è sempre più pilotato. Perché è vero, perché è sempre la certezza della pena l'unica che può fare da deterrente. Ora, nel caso di Ravezzi e di Rosi, la certezza della pena è stata applicata. Qua, per esempio, no. Giovanni, Udine, buongiorno. Buongiorno, Granzini. Dica. Volevo fare un piccolo commento sull'episodio dell'addio di Ronaldo al calcio. È uno di quei rari, purtroppo, giocatori che che vanno al di là dell'appartenenza delle bandiere, che uno ha il piacere di solamente di andare a vedere giocare. Io purtroppo l'ho solo visto in televisione, ma ho avuto la fortuna di vedere giocare Zico a Udine e quindi sono, ripeto, quei casi in cui uno va allo stadio, si siede e il risultato della partita diventa una cosa secondario. È secondario, esatto, solo il piacere, certo, di vedere certe cose, certo, tutto qua. Grazie, grazie Giovanni. Grazie, perché dice quanti inutili coccodrilli, scrive su Ronaldo, scrive un ascoltatore, l'ultimo messaggio arrivato. I coccodrilli si fanno quando una persona scompare. Ronaldo per fortuna è vivo e vegeto. Io ho l'impressione che da un punto di vista di fama, in peritura andrà più lontano di lei che non si firma, no, così a spanne. Ronaldo, proprio questo però mi suggerisce di provare a ricordare anche attraverso qualche numero chi è stato Ronaldo. Allora, fino a quando non si ruppe il tendine rotuleo, ripeto, in quel Lazio-Inter che credo fosse il 12 aprile del 2000, e quindi lui aveva 23 anni e mezzo, tanto per, no? Quindi la sua carriera vera è durata dai 16-17 a 23 anni e mezzo. Lui ha segnato 45 gol in 47 partite nel Cruzeiro. Aveva segnato 47 gol in 49 partite del Barcellona, vado a memoria ma credo di non sbagliare. Aveva segnato ancora più gol nel PSV Eindhoven, sempre con una differenza di meno 2, 55 su 57, mi fa segno Franco Piantarina di là dal vetro. Poi è venuto all'Inter e nella prima stagione ha segnato 25 su 32. Calcoli che con la maglia del Brasile lui ha giocato sia nella fase ascendente della carriera ma anche in quella discendente. Lui fu capocannoniere nel 2002, vinto grazie ai suoi gol in Corea. 9 gol già da giocatore grasso, giocatore comunque con questo tendine che gli non gli permetteva più le cose di prima, eccetera, eccetera. Ma nel Brasile, in cui ha spalmato la sua carriera tra il prima e il dopo, ha segnato 62 gol in 97 partite. Questo per dare un minimo di idea. Al Real Madrid in 5 anni, ne ha saltate tantissime per assenze, ma ne ha giocate 177 e ha segnato 100 gol. Questo per dare, no, per dare un'idea di chi era questo giocatore, al di là poi appunto di quella sensazione di elettricità che, come ha detto bene il primo ascoltatore che ha scritto, trasmetteva in chi era allo stadio, in chi vedeva Ronaldo che riceveva la palla e che puntava l'avversario. Beh, a quel punto poteva sempre succedere di tutto, ed è sempre successo ancora qualcosa, sempre no, ma spesso è successo ancora qualcosa anche nella fase discendente della carriera. Quando è arrivato al Milan nel 2007, ed era ormai un giocatore grasso e un giocatore palesemente in declino che trascinava, sembrava trascinasse la sua carcassa per il campo, no? in certi momenti. Comunque ha segnato 9 gol in 20 partite, cioè io 9 gol in 20 partite, ci sono dei fenomeni celebrati di oggi e di ieri che prima di segnargli ci devono pensare. Allo stesso Corinthians, che è stato il suo ultimo approdo, ecco qua l'ultima statistica: 70 partite, 35 gol. E poi c'è quest'altro che scrive, il fenomeno lì, che scrive su Ronaldo quanti inutili coccodrilli, no? Ripeto. Va bene, non ci sono... No, lasciamo stare gli ascoltatori adesso perché siamo verso la conclusione di questa parte. Sentiamo invece, mi sembra giusto, sentiamo il saluto d'addio di Moratti a Ronaldo. Un po' dispiace di non vedere più Ronaldo, perché è un giocatore di maggior, più grande centravanti della storia, questo senza dubbio, della storia del calcio. E quindi con tutto l'affetto, ma anche con tanta stima e piacere di chi ha potuto vederlo e vederlo poi con la nostra maglia, quindi è stato in un anno speciale, quindi devo dire che per noi è stato un grande privilegio, e gli faccio gli auguri di divertirsi nel resto della vita come è riuscito a fare giocando a pallone, insomma. Mattavelli domanda a Gianni perché non ha parlato della partita del Milan di stasera, perché ne parla tra poco Fabio Cudicini, che essendo il padre del secondo portiere del Tottenham, Carlo Cudicini, non so, ed essendo uno storico tifoso del Milan, non so se sia più preparato sulla vigilia della partita rossonera o su quella dei londinesi. Lo scopriamo tra poco dopo aver sentito l'aggiornamento dei mercati. Sono abbastanza curioso di sapere come si divide stasera, come divide il suo cuore stasera, Fabio Cudicini. Buongiorno Fabio. Buongiorno, caro gran signor Garanzini. Non voglio metterti in difficoltà, però il Milan è la squadra del tuo cuore ed è una squadra di cui alcune imprese, insomma, tu sei stato, come dire, non corresponsabile ma coautore, no? Imprese storiche a Manchester, a Glasgow, in casa, anni di vittorie e di grandi imprese e di grandi partite. Di là, nello stesso tuo ruolo, gioca Carlo Curicini, che però stasera non gioca. Ma insomma, è chiaro che tu hai adottato un minimo il Tottenham perché è la squadra in cui sta giocando tuo figlio. Per cui sono curioso di sapere come ti dividi. Ma sai, qua mi ballo lo slogan che va di moda del conflitto di interessi, no? Purtroppo è capitato quest'anno una stagione per il Tottenham molto milanese, diciamo, tra Inter e Milan, e questo era un turno in cui speravo che non avvenisse lo scontro così, diciamo, fratricida, ma però è andata così e quindi va bene. L'unica cosa che mi dispiace molto, da una parte sono meno preoccupato perché ovviamente Carlo è in panchina e quindi sì, la partita la vedrò più serenamente, ma mi dispiace molto che le due squadre siano incomplete, perché il Milan, sappiamo, Pirlo, Ambrosini, Boateng, Bonera, non può giocare vittime del regolamento di Champions, Van Bommel e Cassano, quindi dall'altra parte non c'è il match winner della partita con l'Inter, Bale. Non ci sarà probabilmente 99% Modric, che è un po' il pirlo della situazione. Crouch c'ha la schiena un po' in crisi anche lui, insomma è un po' dimezzate queste squadre, che altrimenti, secondo me, data anche la mentalità aggressiva del Tottenham in casa e fuori, gioca più o meno nella stessa maniera, avrebbe dato seguito a una partita sicuramente bella, interessante, divertente per gli spettatori. Questo mi dispiace un po', però insomma, d'altra parte, con tutti questi infortuni che girano nel mondo del calcio, sì, ha colpito anche queste due squadre. Bisogna prepararsi a questo. Senti, certo. Leggo un po', sto sotto occhio le formazioni. Allora, la coppia centrale del Milan è Nesta Iepes, dovrebbe giocare, anzi giocherà Thiago Silva da playmaker, diciamo alla Desai per capirci, con Gattuso e Flamini sui lati. Seedorf dovrebbe fare il suggeritore delle due punte che dovrebbero essere Pato e Ibrahimovic, mentre di là Pavliuchenko dovrebbe con Van der Vaart dividersi il compito di attaccare, o comunque di fare gli attaccanti di coda, e poi c'è il solito Lennon da una parte e il resto però appunto manca un pochino dei talenti che dicevi tu. Come te la immagini? Come te la figuri? A sinistra Krasnika probabilmente, che chiaramente tutto un'altra caratteristica di Bale, sì. Sicuramente gran parte delle azioni offensive del Tottenham poggiano di solito da quella parte, e invece oggi probabilmente non sarà così. Sì. Ha un vizietto questo Krasnika, che due partite che ha giocato, le ultime due ha fatto due gol decisivi per il Tottenham, quindi questa è sicuramente una pedina da tenere comunque con molta attenzione, perché è un giocatore tecnico, c'è grinta, è fresco, quindi non farà le cose di Bale, però parteciperà sicuramente al centrocampo in maniera positiva, insomma, ecco. Quindi il Ragno Nero segnala di fare attenzione a questo mancino. Senti, Ragno Nero, scusa, ti interrompo un attimo per dire che la vera pericolo, secondo me, per il Milan è però Lennon, perché Lennon è in, certo, in buone condizioni, se il terreno non lo frena, ma è un terreno, diciamo, all'inglese, no? Quindi sì, dovrebbero essere abituati. Scusa, ho interrotto. No, la Lennon, era con il suo spunto in velocità e con la sua... Sicuramente Antonini deve stare molto attento. Ah. Va bene, hai segnalato i pericoli, hai anche detto che insomma, tutto sommato confidi in una serata, per carità, emozionante come sempre, è in uno stadio, ma non come avrebbe potuto essere se Carlo fosse stato in campo, però ricorderai la partita con l'Inter come è andata, no? Anche allora c'era Gomez in porta, sì, nel Tottenham. Sì, sì, poi rigore, espulsione, e Carlo che se la gioca lui. Sì, vabbè, ma quelle sono cose che non capitano tutti i giorni, insomma, quindi no, ma io vorrei vedere una partita, guarda, tranquilla, divertendomi. Poi comunque vada, diciamo così in maniera salomonica, che una squadra di mezza famiglia, diciamo il Milan, tutta la famiglia, diciamo Tottenham, che rappresenta, diciamo, questi due scorci familiari, arrivano, una delle due arriva in quarti di finale, quindi, insomma, e quindi te la godi. È l'unica consolazione, quindi il bilancio sarà comunque positivo. Senti, una proiezione soltanto, poi magari ci sentiremo, non dico domani, ma ci sentiremo per il match di ritorno. Nel frattempo, hai visto giocare sabato Milan-Parma, io ho avuto l'impressione che sia stata una partita anche troppo facile per essere un test attendibile fino in fondo, però è vero che a questo punto della stagione 4 gol e gioco divertente eccetera fanno morale. Il Milan secondo te ha superato quella fase di flessione o aspetti controprove? Ah, io aspetto sicuramente la controprove, ma io sono un po' San Tommaso, sono un po' un perfezionista, diciamo così, quindi il Parma indubbiamente non è risultato, stranamente, più pensavo che l'ansia della retrocessione fosse un po' frenato, ma nello stesso tempo secondo me doveva renderlo un po' più spavaldo eccetera, quindi i pericoli non ne ha creati, i gol ovviamente fanno morale, la squadra probabilmente si è ricaricata, ha messo un po' di più fieno in cascina qui rispetto alla classifica, considerando l'Inter secondo me l'avversario sempre più pericoloso, e quindi adesso il Napoli l'avremo in casa, insomma un buon comportamento nelle due partite di Coppa, il turno eccetera, fatto bene, potrebbe anche dare quella spinta, no? Per il campionato, sì. Di solito quando si vince lo spogliatoio ha sempre una serenità o una consapevolezza maggiore del solito, quando ci sono problemi si è un po' più nervosi, insomma. Quindi ottimista con saggezza comunque, però certo, senza stranatezze. Certo. Grazie Fabio. Prego, ti immagini. Grazie di sentirsi, buon pomeriggio, buon lavoro. Grazie a Fabio Culicini, al Ragno Nero e alla sua, avete sentito, no? Alla sua analisi di questa serata, visto che ormai conosce il Tottenham esattamente come conosce il Milan. Torniamo a sentire qualche voce, per esempio, che arriva proprio dalla vigilia di Milan-Tottenham, poi magari ci sarà qualche altro vostro intervento su Ronaldo. Molto bello questo messaggio firmato Marino Modena, che scrive: io penso che come Messi il Ronaldo prima maniera ispirava tenerezza, al limite dell'innocenza, ciò che invece non in fondo è Cristiano Ronaldo, che spesso è al limite della spavalderia e della superbia. È verissimo, perché poi anche gli atteggiamenti contano nel ricordo di un grande, no? E magari poi qualche classifica la si può, a parità magari di talento, di valore, e non è questo il caso, qualche classifica poi tener conto poi anche di parametri di quel genere. Sentirei la vigilia di Ibrahimovic in particolare. Quando entriamo, soprattutto in casa, si deve fare una grande partita, perché sicuramente in casa di Tottenham sarà più difficile, perché hanno tifosi dietro loro, giocano a casa, e poi dipende da come partita è andato. Noi dobbiamo entrare come ultima partita, subito da inizio lascia vedere tutti che vogliamo vincere, con un grande ritmo e con un grande spirito e con un grande gioco come abbiamo fatto. E poi sono sicuro che di gol arrivano se fai queste cose. Sono un tifoso interista da sempre, ma ho sempre avuto una smisurata ammirazione per il Ragno Nero, scrive Alex da Varese. Il Ragno Nero è Fabio Culicini, il Ragno Nero è sempre un piacere, scrive Paolo da Milano. Insomma, ogni volta che Fabio interviene a questo programma arriva il gradimento di chi lo ha di chi lo ha conosciuto, di chi lo ricorda sul campo, di chi semplicemente, senza averlo visto giocare, ne apprezza la signorilità, insomma, la classe, anche adesso che la carriera è finita da tanto tanto tempo. C'è qualche problema di ricezione, segnala per esempio Nicola a Venezia. Prima avevo visto che dei problemini c'erano a Padova e dintorni, sono zone ad alto tasso di fedeltà per Radio 24 e quindi segnalo a chi di dovere. Giorgio, chiamato da Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, era per dirle che sono uno dei coccodrilli che piangono perché Ronaldo non c'è più. Perché avendo provato una forte amarezza quando se ne andò dall'Inter, poi in questi giorni, sentendo che ha dato, come dire, l'addio al calcio, eccetera, eccetera, sì, mi è venuta in mente una cosa che ho provato personalmente a Piacenza una sera con il mio bambino. Abbiamo visto una partita di Coppa Italia, Piacenza-Inter, ed è stata una cosa assolutamente fantastica, con tutto lo stadio del Piacenza in piedi dopo il terzo gol di Ronaldo, che era stato un capolavoro eccelso, e con un signore dietro a noi che diceva, un altro signore che era rimasto un po', come dire, un po' male perché aveva fatto il terzo gol, che gli diceva: alzati e applaudi, perché uno spettacolo così a Piacenza lo vedremo forse fra 20 anni. E credo avesse ragione, e anzi magari era stato pure ottimista. Ronaldo è stato uno di quei pochissimi giocatori al mondo che, insomma, salvo partite di particolare accanimento, di particolare rivalità, rappresentavano comunque un piacere anche per lo spettatore avversario, e questo è appartenuto a pochi, veramente soltanto ai grandi di ogni tempo, di cui Ronaldo ha fatto e farà indubbiamente parte. L'ultimo intervallo di oggi, le strade. A proposito di ricordi, scrive Giuseppe Indelicato, sono tanti ricordi su Ronaldo, ma ricordo un epico gesto del gol al suo rientro a Brescia, su assist di Vieri, dopo lunghissimo infortunio, la lunghissima guarigione. Lo ricorderò tra i più bei ricordi calcistici del primo decennio del nuovo millennio, perché in tutti gli stadi, non solo lì, la gente si alzò in piedi di scatto, sentendo che Ronaldo era tornato a fare gol. Stiamo parlando quindi, ormai stiamo quasi parlando di storia, no? Tanto vale quindi affidarci al capitolo affidato anche oggi a Nicola Filippone. Sembra ieri. 15 febbraio 1931. Nella Francia, che rimedia una sconfitta interna in amichevole contro la Cecoslovacchia, debutta il centromediano Raoul Diagne, nato in Guyana e con origini senegalesi, primo calciatore di colore della nazionale francese. Si tratta quindi di una data storica per una rappresentativa che anni dopo diventerà campione del mondo con una formazione multietnica. Il padre di Raoul, Blaise Diagne, è stato il primo africano ad essere eletto nel Parlamento francese. La straordinaria esperienza da pioniere di Raoul Diagne continuerà anche da allenatore. La neonata federazione senegalese lo chiamerà nel 1961 per costruire la prima nazionale del paese, fresco di indipendenza. Non ho speso in vano la parola storia, a proposito di questo appuntamento di oggi con Nicola Filippone. Ma se Ronaldo avesse fatto un po' più vita da calciatore, domanda Moreno, certamente gli avrebbe giovato, ma io non credo che sia molto facile fare una vita seria da calciatore quando intanto sei il numero uno al mondo, e quindi, insomma, non è difficile immaginare quali sono le sollecitazioni, e soprattutto quando a 23 anni e mezzo ti ritrovi con il tendine rotuleo, non un tendine qualunque tra l'altro, col tendine rotuleo rotto, e capisci e sai che la tua carriera è a rischio. Allora io credo che già essere tornato, ed essere tornato quasi quello di prima, sia stata un'impresa. Poi alla seconda rottura, e comunque con tutti gli infortuni e gli incidenti avuti in mezzo, credo che lasciarsi un po' andare, poi dipende sul quanto lasciarsi andare, ma credo che sia assolutamente umano. Antonio, Napoli, buongiorno. Buongiorno, dottore Garanzini, grazie per avermi chiamato. Volevo intervenire per quanto riguarda l'episodio di sabato sera tra Rosi della Roma e la Vizia del Napoli. Io ho visto la partita, sono stato allo stadio, il clamore che è successo. Premetto, la Vizi ha sbagliato, queste cose sono da vigliacchi, però il clamore, l'accanimento contro la Vizi e contro la Società Sportiva Calcio Napoli, per me è troppo. non si parla mai del Napoli, una realtà che 6 anni fa era in Serie C, quest'anno ce la stiamo giocando, pur che lo scudetto non lo vinceremo mai, per carità, ci sono altri investimenti. Facciamo un intervento, non dico Chiagno e Fonte, ma Chiagno e Sputa, Antonio. Ma intervengo perché ho sentito un suo spettatore che era indignato. Io sono indignato perché il Napoli lo seguo e le dico, ogni domenica se non c'è un episodio non usciamo contenti dallo stadio, nel senso che c'è un accanimento. E le dico di più, glielo metto per iscritto, domenica se Cavani giocherà verrà squalificato, perché dà fastidio il Napoli in quella posizione e dà fastidio il Napoli che se la può giocare. Che tragedia. Pensi, Antonio, che per fare una grande squadra come sta diventando il Napoli, ma per fare il salto di qualità, non basta comprare tutti questi giocatori, non basta fare il grande lavoro che ha fatto Mazzarri, bisogna sradicare dalla testa dei suoi tifosi i ragionamenti che fa lei, perché se no non si va da nessuna parte. Questa è l'unica riflessione davvero che mi viene davanti ai ragionamenti di questo genere, perché è proprio un ostacolo. Io ricordo, ma lo ricordo da ex tifoso del Torino, quindi vede che faccio anche outing e parlo da ragazzo, i tifosi del Torino ragionavano esattamente come lei ha fatto adesso. Poi un giorno è arrivato Gigi Radice ad allenare il Torino, si è ritrovato una signora squadra e ai primi accenni di vittimismo, no? A oltranza, ma gratuito, ma di partenza, quale quello che abbiamo sentito da lei, Radice ha cominciato a sbuffare, ha cominciato ad allontanare, ad esorcizzarlo dicendoci che non ci credeva, che queste erano sciocchezze, che erano fesserie, che bisogna essere comunque più forti di queste cose. Per pura combinazione quell'anno ha vinto il campionato. Io mi auguro che Mazzarri, che pure ogni tanto indulge a sua volta in questo genere di cose, avendo capito che forza ha la sua squadra, io mi auguro che Mazzarri si tenga lontano da questo chiagnere gratuito e soprattutto autolesionista. C'è un altro napoletano in linea, Giuseppe, buongiorno. Buongiorno signor Garanti. Dica. Niente, le volevo dire il fatto che ha chiamato prima quel ascoltatore, parlava di Lavezzi e di Rossi della partita di sabato. Sì. La cosa più schifosa che può un essere umano fare, sempre essere umano, è lo sputo. D'accordo. L'hanno detto e i signori giornalisti di Sky sabato sera, Gianluca Vialli, quelli là che erano in studio. Addirittura un noto giornalista di Sky ha detto: io preferivo prendere un cazzotto in faccia e non uno sputo, perché è la cosa più ignobile che un essere umano può fare a un altro essere umano. Questo è stato. Adesso che il giudice ha dato 3 giornate a ciascuno, a Lavezzi e a Rossi, ma non significa niente questo. No, significa che, Giuseppe, significa che è una sanzione, che il giudice ha ritenuto commisurato la pena. Io, se fossi io il giudice sportivo, ma per fortuna non lo sono, perché comunque sono responsabilità anche quelle, e in questi casi un tariffario bisogna pure scegliere di applicarlo, e chissà qual è quello giusto e quello vero. Io personalmente sarei sempre più severo con chi provoca e con chi comincia e non con chi segue. Quindi, premesso che lo sputo è appunto un atteggiamento ripugnante, no? Soprattutto in ambito, sempre e comunque, ma in ambito sportivo forse a maggior ragione, io sarei stato più severo con Rosi che con Lavezzi, perché a cominciare è stato certamente Rosi. Avrei dato magari 3 giornate a uno e 2 all'altro, 4 giornate a uno e 3 all'altro, 4 e 2, faccerei il punteggio. Però sentire, come ho sentito l'ascoltatore precedente, che evidentemente era un po' meno illuminato di lei, che tutto questo fa parte di una congiura pregressa, mi sembra. Sarà la stessa congiura per cui stamane la Corte d'Appello di Genova ha confermato la condanna a 4 mesi condonati per il presidente del Genova Preziosi, accusato di frode sportive in merito alla vicenda su quel famoso Genova-Venezia nel campionato di Serie B 2004-2005. In precedenza, Preziosi e gli altri imputati nel processo erano stati condannati tutti a 4 mesi ciascuno, mentre stamane invece sono stati assolti per non aver commesso il fatto il figlio di Preziosi Matteo, l'allora direttore generale del Genoa Capozzucca, e Francesco Dalcin, presidente del Venezia all'epoca dei fatti. Confermata la condanna soltanto al presidente Enrico Preziosi. Abbiamo finito anche oggi, sì. E allora grazie a Fabio Cantadoni in regia, Franco Piantanida in redazione. Appuntamento a domani.